Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e giornata quanto mai ricca oggi sul fronte italiano, devo dire. I nostri GR vi hanno aggiornato sulla manovra, sui dubbi del Quirinale, sui calcoli del Quirinale. E poi c'è il lodo Mondadori, ieri praticamente ve l'abbiamo raccontato in diretta, anche perché era un'esclusiva del Sole 24 Ore, questa, tra le righe della manovra, questa cosa che chiariamo subito. Non dà degli effetti sui conti pubblici, ma sostanzialmente non è un bel messaggio. Avete visto, sentiamo anche le reazioni politiche, perché il gruppo Fininvest avrebbe un vantaggio di qualche centinaio di milioni di euro. Dico qualche perché la prima sentenza fu di 750 milioni di euro di rimborso. C'è chi ha sostenuto che si potesse arrivare a un patteggiamento intorno ai 400 milioni. Beh, se la legge stabilisce a 20 milioni il massimo del rimborso, non ci vuole un economista per capire che il vantaggio per il gruppo Fininvest sarebbe di circa 380 in caso di patteggiamento, ma nel caso della prima sentenza di 740 milioni di euro. Non è, diciamo, è un elemento politico che non va a toccare i conti pubblici, non va a toccare le tasche degli italiani, però rappresenta sempre un elemento politico, mettiamolo così, di dubbia efficacia, viste anche le reazioni all'interno della maggioranza. E poi c'è l'aspetto sul, invece, che riguarda le tasche degli italiani, e c'è l'aspetto del bollo. Allora, faremo un calcolo alle 17.45, domani se ne occuperà anche Deborah Rosciani con Salvadanaio. L'effetto sui deposito titoli del risparmiatore più prudente, cioè che quello che ha BOT e BTP, visto così, mi dispiace dare un commento, ma è devastante. Cioè il guadagno per chi ha 10.000 euro in BOT con un aumento del bollo a 160 euro, levate poi le commissioni della banca, e le tasse, e anche al netto dell'inflazione, risulterebbe per un investimento in BOT e BTP di 10.000 euro pari a qualche decina di euro. E allora su questo stanno insorgendo parecchi osservatori, perché è chiaro che cerchiamo di capire poi cosa faranno anche i risparmiatori, perché nessuno va a mettere 10.000 euro se poi te ne restano 10 o 20 euro come guadagno. È probabile che vi sarà uno spostamento o verso forme di investimento più rischiose, e quindi però con rendimenti più alti, o verso un deposito nel conto corrente bancario. La cosa che viene più criticata, e ne parleremo alle 18.10 con l'economista Luigi Zingales, è il fatto che questa imposta appunto non è progressiva: 160 euro fino a 50.000 euro, 380 euro da 50.000 euro in su, per cui è chiaro che, non essendo progressiva, va a vantaggio di chi ha un grosso investimento. Cioè, se io ho 100.000 euro in BOT e BTP, pago semplicemente 380 euro di marca da bollo. Se ne ho 50.000, pago sempre 380 euro. Se ne ho 10.000, pago 160 euro. È chiaro che manca la progressività. E se ne ho 5.000, pago sempre 160 euro. E anche se ne ho 1.000, pago sempre 160 euro. Per questo che diventa una norma non progressiva. Poi c'è l'assemblea annuale dell'ANIA, le assicurazioni italiane. Avremo ospite il presidente Cerchiai. Anche loro lamentano un aumento della tassazione. L'IRAP, dalla manovra viene confermata anche un aumento dell'IRAP per quello che riguarda banche e mondo assicurativo, per quello che riguarda la stima di quanto porterà il gettito complessivo, la si sta ancora facendo, però sostanzialmente 1 miliardo e 850 milioni arriveranno complessivamente nei 4 anni dall'aumento dell'IRAP per le banche e per le assicurazioni. Poi vi racconterò gli altri dati. La nota è la seguente: si è entrati in questa manovra finanziaria, dopo il risultato deludente per il governo e per la maggioranza, con una forte richiesta a Tremonti di trovare risorse per la crescita. Sembrava Tremonti sotto scacco, Tremonti sotto assedio, Tremonti a rischio. Abbiamo visto decine di giornali in quei giorni sul tema. Se ne è usciti sostanzialmente con una manovra che sposta, come si è accorto anche il Quirinale, tutti i tagli al 2013-2014, per cui l'anno delle elezioni e l'anno del nuovo governo. ha impatto molto basso nei primi due anni, questo da un lato è un bene, dall'altro però porta a un aumento del prelievo fiscale in qualche forma, perché quando tu tagli 7 miliardi e mezzo alla sanità e 11 miliardi ai ministeri, ma soprattutto 9 miliardi e 6 agli enti locali, è chiaro che aumenteranno le addizionali IRPEF e le altre addizionali. Se tu tassi di più banche e assicurazioni, probabilmente te lo scaricheranno nei servizi. Per tutti quelli che hanno un deposito titoli c'è un aumento del prelievo fiscale, questo è indubbio. E poi sul fronte pensioni, che spesso viene dimenticato, leggeremo anche la lettera di un ascoltatore, attenzione, pure lì c'è con un minor adeguamento e quindi con una minor rivalutazione delle pensioni, che garantirà risparmi per 2 miliardi e 2, praticamente c'è una riduzione della pensione per molti cittadini, quelli che hanno le pensioni più alte. Questo lo dico perché si è entrati con l'idea di una manovra per la crescita, si è usciti con una manovra che ha tagli spostati in là e invece però aumento della tassazione diretta subito. Su questo non ci sono dubbi, per cui lo dice, ma al di là del fatto che lo dicono anche vari esponenti come la Presidente della Confindustria Marcegaglia, che c'è poco per la crescita, la riforma fiscale annunciata, le tre aliquote, è un disegno di legge che dovrà avere poi decreti delega, che dovrà avere poi decreti attuativi più avanti. Questo è lo scenario della manovra, al di là di tutte le polemiche che si sono fatte all'inizio. Io vorrei partire subito da questo, perché oggi c'è poco altro, poi vi racconterò anche i mercati, tutta la giornata possiamo dire concentrata sulla manovra. Vi do solo un aggiornamento dei mercati finanziari, quindi saltiamo oggi anche le notizie in breve, veramente non ce ne sono, al di là di quelle che ho ricordato io. 349-238-6666 per i vostri sms. Il mercato come va? -1,13% Milano, -0,60% Parigi, invariata Francoforte, Londra invariata. Chi va particolarmente male oggi in borsa, e già da questa mattina, erano anche i titoli CIR, perché perdevano il 3% dopo che si è scoperto appunto il vantaggio che ne avrebbe nella vicenda Lodo Mondadori il gruppo Fininvest. Chi va bene oggi in borsa sono Di Assori in +1,40%, Atlantia +1,1%, Campari +1%, Luxottica +0,90%, Saipem +0,80%, Mediaset ha guadagnato ieri l'1,4%, oggi perde il 2,20%, ma soprattutto di nuovo c'è un tonfo su Fondiaria Sai, -8,25%, Popolare di Milano -4%, Impregilo -3,20%, Enel Green Power -2,90%, come UbiBanca e il Banco Popolare, Buzzi Unice -2,60%, Azimut -2,5%, qui c'è un impatto anche in chi gestisce il portafoglio titoli. Intesa San Paolo -2,20%, Monte dei Paschi -2%, Finmeccanica -2%, Enel -1,80%, Mediobanca anch'essa perde l'1,80%. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo subito con la manovra, le reazioni oggi e poi invece anche il giudizio di chi rappresenta il mondo assicurativo. Oggi l'assemblea infatti dell'ANIA. Allora, vi voglio leggere una lettera che è arrivata oggi a Focus Economia. Scrive un ascoltatore: mi sembra che la stampa e la radio siano tutte pronte a sottolineare più i 380 euro di bollo sui depositi che il blocco dell'adeguamento delle pensioni. Eppure, su una pensione netta di meno di 2.000 euro, il che significa anche aver versato per 40 anni fior di contributi, significano 800 euro in meno all'anno e non sappiamo bene per quanti anni. E questo è sicuramente innegabile, nel senso che la cosa che ha fatto più scalpore è stata l'imposta, l'aumento dell'imposta di bollo, che è un aumento importantissimo per quello che riguarda i deposito titoli, però è vero che anche il blocco delle rivalutazioni delle pensioni va a toccare pesantemente molti pensionati. L'altro cosa che fa molto discutere è il calcolo che è stato fatto sull'impatto della manovra. Allora, ripeto, intanto saluto, perché ci ha raggiunto in collegamento il presidente dell'ANIA, ossia l'Associazione Nazionale che raggruppa le compagnie di assicurazioni. Fabio Cerchiai, buonasera. Buonasera. Presidente, stia con noi ancora un po' perché devo leggere due cose che insomma ci hanno lasciato di stucco, però insomma, il calcolo su quanto impatterà questa manovra. Allora, la correzione dell'indebitamento è di 5 milioni e 300 mila euro nel 2011, 5 milioni, 150 milioni nel 2012, 18 miliardi nel 2013, 25 miliardi nel 2014. L'intervento reale sfiora i 50 miliardi in 4 anni. Le risorse sono 11 miliardi che arriveranno, cioè 11 miliardi arriveranno dal taglio dei ministeri in 3 anni, 10 miliardi dal taglio agli enti locali fra 2013 e 2014, 8 miliardi e 8 in 4 anni dall'aumento sul bollo deposito titoli, 8 miliardi e 8 varrà questa, l'aumento del bollo sul deposito titoli, se tutti confermano però il deposito titoli che hanno, perché uno potrebbe anche levare i titoli, levare il deposito da obbligazioni e azioni e spostarlo sul conto corrente, se poi non ci guadagna. 7 miliardi e mezzo dalla sanità nel biennio 2013-2014, quindi non adesso. 2 miliardi di euro arriveranno dalla stretta su giochi e scommesse. 1 miliardo e 8 dall'aumento IRAP su banche e assicurazioni, ci siete anche voi Cerchiai. 200 milioni in 3 anni d'aumento del bollo delle auto di grossa cilindrata. Il lodo. Allora, sul lodo vedo già moltissimi messaggi. A parte il fatto che non è sto bello scoprirlo, l'ha scoperto solo 24 ore leggendo la manovra, che c'erano queste 2 o 3 righe che dicono in sostanza se tu viene sospesa l'esecutività di una sentenza, o meglio non è più una facoltà del giudice ma è un obbligo, per condanne superiori ai 10 milioni in primo grado e 20 milioni in appello. Le reazioni, il ministro Sacconi ha difeso al microfono del nostro Vincenzo Miglietta il lodo, la norma, diciamo, sul lodo Mondadori. Credo che le polemiche siano solo il frutto dell'ambiente avvelenato che ancora caratterizza il nostro confronto politico. Ogni norma deve essere valutata in sé, se giusta o non giusta. Questa è una norma giusta perché tutela tutte le parti di un processo civile e evita che si producano, per la parte che risulta durante il procedimento soccombente ma che poi alla fine potrebbe risultare vincente, che si producano conseguenze irreversibili. Sarebbe ben paradossale che in conseguenza della soccombenza in un grado di giudizio si dovesse pagare, fallire in conseguenza e poi avere la soddisfazione teorica ma con tutto il danno pratico ormai prodotto vincendo nell'ultimo grado di giudizio. Ricordo che la parte soccombente che non paga è tenuta a dare una significativa cauzione, quindi l'equilibrio è stato proprio definito fra le parti in modo che nessuna delle due parti abbia un danno irreversibile a fronte di un esito incerto. Allora, sarà sicuramente come dice il ministro Sacconi, la cosa strana è che non era mai stato presentato questo aspetto, cioè era contenuto nel testo, se ne è accorto un giornalista del Sole 24 Ore. Se tutto è così trasparente potevano parlarne fin dall'inizio. Il sospetto forte è, visto che il vantaggio più grosso potrebbe arrivare alla fine in veste dal lodo Mondadori, politicamente io non sto contestando il tema, ci mancherebbe, ma politicamente come si fa a non pensare alle reazioni che vi sarebbero state, reazioni che ci sono anche in casa della Lega, perché i vertici della Lega hanno scoperto, leggo con voi le agenzie, con stupore e malumore la presenza della norma definita pro Berlusconi nel testo della manovra. Quanto ha preso l'ANSA da fonte autorevole, i ministri leghisti giovedì scorso non avevano ricevuto nel testo che era stato loro consegnato la norma in questione. Profondo malumore dei ministri Bossi, Maroni e Calderoli. E imbarazzo anche nel ministro degli esteri Franco Frattini, che sembra avere minore certezza di Sacconi su questo. Dice insomma, non c'è stata discussione approfondita nell'ultimo Consiglio dei Ministri. Il principio di sospendere l'esecutorietà delle sentenze anche di secondo grado in sede civile è un principio che già esiste nell'ordinamento, quindi non penso che ci fosse alcun intento, come dire, ad personam, ma è chiaro che un approfondimento oggi non sono in grado di farlo perché questa norma non l'abbiamo sotto gli occhi. Poi scrivono alcuni ascoltatori al 349-238-6666, ma cosa c'entra con la finanziaria il lodo Mondadori? Appunto, ce lo chiediamo anche noi. Sentiamo Rosy Bindi e poi il vicepresidente del CSM Michele Vietti, ex membro della maggioranza, quindi non certo tacciabile di opposizione. Comunque, tra l'altro oggi ricordo che la manovra doveva essere presentata in conferenza stampa, ma è saltata ufficialmente per il maltempo. Il maltempo. Piove. Piove. Rosy Bindi sulla manovra. Viola ogni principio di uguaglianza e dello Stato di diritto. Ma è ancora più grave e inaccettabile perché questa norma è inserita dentro una manovra che toglie a tutti, soprattutto ai più deboli. Spero che a qualcuno sia rimasta un po' di vergogna. Con quale faccia un ministro che blocca le pensioni del ceto medio, che abbassa le risorse per la sanità, che taglia i comuni, ha il coraggio per presentare una manovra nella quale si salva il patrimonio del Presidente del Consiglio? Allora, attenzione, Presidente Cerchiai, ancora in linea? Certo. Così ascolta anche lei, magari oggi avendo avuto l'assemblea. No, c'è una notizia molto importante che le agenzie hanno appena battuto. Il Presidente del Consiglio Berlusconi ha ritirato la manovra nella parte che riguarda e che avrebbe coinvolto anche il lodo Fininvest e il lodo Mondadori. Quindi quelle tre righe di cui si è accorto ieri il Sole 24 Ore, stando... ecco, l'agenzia recita: la norma era giusta ma la ritiro. Vabbè, per le polemiche che ha causato, evidentemente dentro la maggioranza i mal di pancia sono stati pesantissimi. Se si è arrivati nell'arco di nemmeno 24 ore, ieri a quest'ora la raccontavamo, a ritirare la norma che riguarda, come abbiamo spiegato, la sospensione dell'esecutività di una sentenza in attesa del grado di giudizio successivo, non è più una facoltà ma l'obbligo. Insomma, ritirata la norma che alcuni hanno chiamato Pro Fininvest e Pro Berlusconi, le notizie di questi minuti. Allora, mi dica intanto, Presidente Cerchiai, che cosa non le piace, che cosa invece le piace di questa manovra. Voi contribuirete come banche, come assicurazioni, complessivamente, come ricordavo, 1,8 miliardi di maggiore gettito. È una manovra che contiene per voi appunto aumento IRAP per banche e assicurazioni. Prego. La manovra si pone un obiettivo assolutamente condivisibile, che è quello del pareggio del deficit entro il 2014. Gli interventi che portano aumenti di tassazione, sia che riguardino le assicurazioni, che sia che riguardino le banche, sia che riguardino direttamente o indirettamente famiglie e imprese, secondo noi rappresentano la strada sbagliata. Siamo già a un livello di tassazione in Italia, nel nostro paese, indubbiamente oppressivo. Non ci sembra proprio che la strada giusta sia di aumentarlo. Ancor meno di aumentare tipologie di imposta come l'IRAP, che colpendo oltre che il reddito d'impresa anche il costo del lavoro e gli investimenti in modo indiretto, perché tiene conto ovviamente dell'indebitamento dell'impresa che serve a quello, ci sembra che vadano proprio a muoversi in termini contrari alla necessità assoluta di accelerare lo sviluppo economico del paese. Quindi un aumento di imposte dell'IRAP è un aumento che non favorisce certo la crescita. Ma voi la scaricherete su di noi? Ma noi il punto non è certamente questo, nel senso che nessuno intende scaricare. Beh, insomma, sappiamo che sulla. Il problema è che quando aumentano i costi, aumentano in modo improprio, si viene a creare un presupposto di inefficienza e le inefficienze rischiano poi di cadere su tutti, sugli azionisti, sui risparmiatori, sugli investitori. Allora questa è la strada sbagliata, quella dell'aumento delle imposte. La strada giusta, lo abbiamo detto credo con chiarezza anche oggi, è quella del taglio della spesa pubblica improduttiva e impropria, e mi sembra che ci sia solo l'imbarazzo della scelta, a partire dalle province, a proseguire con quasi tutto quello che le viene in mente, che viene in mente a tutti noi cittadini italiani. Sì, sulle province oggi il Parlamento ha bocciato una proposta di legge dell'Italia dei Valori per l'abolizione delle province, quindi mi sembra che su questo... Che era peraltro nel programma elettorale di tutti, se ben ricordo. Era nel programma elettorale di tutti quando si è all'opposizione, se ben ricordo. Allora, Presidente Cerchiai, il metodo, la pubblicità, poi non pensi che l'intervista sia solo sulla manovra del governo, lo sa benissimo, io voglio arrivare ai costi delle polizze RC auto e ai rincari denunciati anche da alcune autorità, però dopo il metodo e la pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms. ...17.35 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per concludere l'intervista col presidente dell'ANIA, quindi di chi riunisce le compagnie assicurative italiane, Fabio Cerchiai. Due risposte velocissime. Allora, a chi dice che stiamo criticando troppo questa manovra in maniera politica, io non ho altro da aggiungere se non invitarli o invitarvi a riascoltare le puntate di Focus Economia quando vi fu la prima e anche la seconda manovra di Padoa-Schioppa, governo Prodi, ok? Vedete, ascoltate, vedete, se le critiche noi le muoviamo sempre, governo del centro-sinistra e del centro-destra, se ci sono delle cose che non ci convincono, e sul deposito titoli, come avremo modo di dimostrare, secondo noi la manovra è, non essendo progressiva, quella norma lì penalizza i piccoli risparmiatori con pochi depositi, 10.000, 20.000, 30.000 euro, magari investiti in BTP e BOT. Primo aspetto, sul lodo, sulla parte lodo Mondadori, norma pro Fininvest. Berlusconi, 7 minuti fa, ha annunciato che la ritira, la leva dalla legge finanziaria, pur essendo giusta, dice il Presidente del Consiglio. Allora, se ritiri qualcosa che è giusto, probabilmente qualcuno non la pensava come te. La Lega questa mattina, non dico io, è stata durissima su questa norma. Alcuni non capiscono il vantaggio per Fininvest. Siccome in primo grado è stata condannata Fininvest a risarcire 760 milioni di euro alla CIR di De Benedetti, vicenda Lodo Mondadori, immaginando che, come alcuni ipotizzato, ci potesse arrivare a 400 milioni, ho solo detto, visto che quella norma avrebbe consentito di pagare massimo 20 milioni, un risparmio di 380 milioni. Se volete fare il calcolo sul risparmio che vi sarebbe stato, vista l'unica sentenza che c'è, è di 740 milioni. Chiuso questo, Presidente Cerchiai, i premi RC Auto, no, non ce l'ho con lei, però insomma, i premi RC Auto sono aumentati del 4,5% nel 2010. Esatto. Ma come mai? Sono aumentati di più i costi per le imprese, i costi dei risarcimenti. L'Italia ha una frequenza dei sinistri che è decisamente più alta della media europea, più del doppio della frequenza dei sinistri francese, ha un costo dei sinistri più alto della media europea. Noi consideriamo risarcibili in validità permanente di un punto, due punti, i piccoli colpi di frusta, che in tutta Europa sono considerati meritevoli di risarcimenti solo temporanei, perché non comportano postumi di permanenza, e tutto questo determina costi per le imprese particolarmente elevati e prezzi più alti della media europea. Le nostre proposte tengono proprio a recuperare il quadro europeo, comportiamoci come in Europa, facciamo le scelte dell'Europa e abbiamo i prezzi, prima ancora i costi e poi i prezzi europei. No, però mi scusi, adesso, ne abbiamo parlato molte volte, sappiamo che c'è anche molta furbizia, io traduco, molta furbizia in alcuni automobilisti italiani, che i danni sono sempre danni molto importanti anche per incidenti minori, e va bene, però questo avveniva anche nel 2009, anche nel 2008, cioè, l'antitrust vi ha detto, Antonio Catricalà nella sua ultima relazione il 21 giugno, attenzione, i premi RC Auto sono aumentati anche del 25% per gli autoveicoli e del 35% per i motocicli, cioè non è che ci siamo messi a fare i furbi solo nel 2010. Ma lei sta riferendosi a alcune singole realtà e di alcune singole compagnie, noi dobbiamo ragionare quando osserviamo il fenomeno in termini medi, e la media è quella che lei ha detto in apertura della nostra conversazione. Ho capito, anche tenendo 4,5%, però non è che ci siamo messi a fare, cioè lei mi sta dicendo che ci sono più furbetti nel 2010 che nel 2009? No, io le sto dicendo che è aumentato il costo dei risarcimenti e che non è diminuita la frequenza dei sinistri, è aumentato il costo dei risarcimenti perché In larga misura, perché no, sono stati fatti interventi per controbattere le speculazioni, le piccole frodi, quelle che, a cui lei faceva cenno prima, come l'abbiamo invocato più volte, e soprattutto non è stata fatta la tabella che è prevista dal codice delle assicurazioni, che si è fatta più di 5 anni fa, per le macro invalidità, lasciando alla magistratura una funzione di supplenza. Allora cosa succede? Che quando il tribunale, in genere il tribunale di Milano, perché è il tribunale che fa giurisprudenza, come si suol dire, stabilisce un risarcimento specifico più elevato del solito, perché ci saranno delle ragioni particolari che non tocca certo a me criticare i giudici, e non è questa certo la mia intenzione, questo fa da contesto di riferimento e viene via via adottato questo processo per tutti i danni di superiori al 9% di invalidità. Ma questo causa delle rivalutazioni di riserve improvvise, degli strappi nel praticato della liquidazione dei danni che poi si riversano. Sì, due obiezioni cerchiai. La prima, il perito spesso è dell'assicurazione. Cioè, nel senso... sì, sì, ma io lo sto parlando quando il perito ha finito la sua funzione. Perché siamo in caso di controversie, quindi decide il tribunale. Lei sa che il tribunale decide su una base di serie di parametri, il danno patrimoniale, il danno, adesso non voglio annoiare i nostri ascoltatori. No, no, però mi dica anche morale, mi dica anche un'altra cosa. Perché però i premi aumentano sempre e abbiamo casi anche di automobilisti, diciamo, corretti che pagano tantissimo? Cioè, questo aumento non avrebbe più senso caricarlo tutto su chi, magari aumentando anche di molto il premio, chi ha spesso incidenti che vengono risarciti sempre come traumi gravi, e io che non mi sono mai fatto niente, che l'auto non la uso o la uso solo per andare a fare la spesa, a quel punto vedo calare, meno, segno meno, questo non l'ho mai visto io. No, lei no, ma è quello che può capitare, che capita soprattutto se lei, sì, utilizzando gli strumenti a sua disposizione, il preventivatore automatico, sceglie il prezzo più conveniente. In altri termini cambia compagnia, in altri termini se lei vuole ancora utilizza la leva della concorrenza, che richiede anche una partecipazione attiva del... questa me l'ha detta anche De Vita ieri, che è presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, che è colpa degli automobilisti non sanno andare a scegliersi la pompa di benzina. E lei mi dice che è colpa nostra che non sappiamo cambiare compagnia. Perché parla di colpa? No, dico che c'è responsabilità. È l'acquisizione di un'abitudine. Ci sono nei comportamenti di tutti noi, ci sono delle vischiosità che può essere utile, e siamo stati predisposti degli strumenti per facilitare questo, per essere utile superare, per cercare l'offerta più conveniente che c'è. Se lei guarda lei trova offerte nella città in cui lei abita con la sua autovettura che possono avere differenze di prezzo del 30%. E lei mi assicura che da un anno all'altro posso vedere il segno meno sulla polizza RC Auto? Io credo proprio di sì, però vede, il problema non è tanto questo, vorrei rispondere. No, se sono un bravo... No, vorrei dirle anche un'altra cosa, che l'aspirazione di chiunque non abbia incidenti è pagare meno dell'anno prima. Certo. Ma perché questo capiti in concreto, perché effettivamente ci sia quel segno meno a cui lei aspira, è necessario che non si aggravi il fabbisogno complessivo per le compagnie di assicurazione. Perché? Perché l'assicurazione si basa su un principio, che è quello della mutualità. Non è che chi non ha sinistri paga zero di premio, chi non ha sinistri paga meno di altri. Se però la probabilità di accadimento dei danni in termini di consistenza, costo di risarcimento o di frequenza aumenta, tutti pagano un po' di più. Sì, mi scusi, allora lo sconto che lei ha serve casomai a pagare meno di quello che avrebbe pagato se lei avesse un incidente. No, ho capito cosa dice lei, però mi scusi, però sì, la mutualità però non può essere un ortaggio verde, diciamo, un po' bitorzoluto. Assoluto. No, mi scusi, presidente, perché guarda, mi faccia consecutivi i prezzi sono scesi. Sì, però mi scusi, mi faccia capire una cosa. Io capisco la mutualità e capisco benissimo che non posso pagare zero perché voi non potete scaricare tutto su chi ha un incidente, ma se il suo ragionamento io lo porto a un'estrema conseguenza, a me conviene fare incidenti, perché tanto comunque mi aumenta la polizza RC Auto, a sto punto un bel incidente con un po' di rimborso, perché è un danno, come citava lei prima, molto comune in Italia, perché siamo un po' fragilini di struttura, ossea e al collo ci facciamo male, mi conviene, faccio un bel incidente al giorno, all'anno, mi scusi, con un po' di... con un po' di colpo di frusta e a questo punto no, un leggerissimo colpo di frusta. Le conviene prendere l'autobus e non pagare il biglietto perché probabilmente nessuno lo scopre. Senta, ma questo non è il principio. No, ho capito, ma se lei mi dice che mutualità, allora siccome non faccio mai un incidente, un bel colpo di frusta una volta all'anno anche a me mi può far comodo. Piccolino, di quelli da un due punti. 5% e più, mediamente in classe 1 di merito, che paga generalmente, mediamente il 30-40% in meno di chi compra la macchina per la prima volta. Quindi non è così. Esasperare. No, ma io apprezzo sempre la sua disponibilità, perché insomma, questo l'apprezzo. Però dico, sappiamo che le accuse che avete ricevuto negli anni passati, Corte di Cassazione, Antitrust, che l'intervento del presidente Catricalà io l'ho trovato molto puntuale. Oh. Catricalà ha parlato di inefficienza di sistema. Certo, nel sistema. No, ma guardi, le compagnie sono nel sistema, ma non sono il sistema. No, è che sa com'è in questo paese, ma non dico solo per l'assicurazione, il sistema è sempre quello degli altri, no? Non è mai. No, io le ho appena detto, le compagnie sono parte del sistema, ma non sono il sistema. Senta una cosa, perché, e ho ancora due domande rapide per lei, perché sono aumentati i premi del ramo vita dell'11%? Perché c'è una forte avversione al rischio e una forte propensione al risparmio. Ma pensavo una forte propensione a vivere, che poteva essere. Insomma, la anche, propensione a vivere. La forte propensione a vivere, insomma, io me la auguro. No, la auguro a tutti, a lei, a tutti. No, ma c'è perché è uno dei rischi, che poi è un'opportunità, che non dobbiamo però trasformare in rischio, è la longevità, l'allungamento della vita umana. Per cui il risparmiatore. E lei sa che il risparmio in Italia sta diminuendo come percentuale disponibile rispetto inevitabilmente, però resta particolarmente consistente confrontato con qualunque altro paese europeo avanzato. Il risparmio comincia a essere canalizzato da ciascuno di noi a una finalizzazione che è quella della protezione in età più avanzate, visto che sappiamo che la pensione inesorabilmente sarà sempre più bassa rispetto all'ultimo stipendio percepito e che avremo la probabilità di vivere sempre più a lungo e vorremmo vivere in modo decente. Allora guardi, adesso, usando un paradosso, potrei dire che per andare contro le compagnie di assicurazione mi converrebbe fare un piccolo incidente all'anno, così anch'io becco qualcosa come questo, poi potrebbe malus, no, ho capito, questo potrebbe portare alla fine a un danno fisico per cui muoio un po' prima e pago un po' di meno anche la polizza, cioè l'unico modo che ho per riuscire a ottenere qualcosa dalle compagnie assicurative è farmi male. Vabbè. Senta, oggi il presidente, ed è l'ultima domanda che ho per lei, il presidente del Codacons, dei consumatori, Carlo Rienzi, ha detto le polizze RC auto in Italia costano il doppio rispetto a Germania, Francia e Spagna, e lei mi dice perché noi siamo più furbetti e abbiamo anche dei livelli per l'Italia. No, ho capito il discorso, però mediamente 407 euro contro 222 e ha chiesto a Maroni lo scioglimento dell'ANIA e dell'ABI, ma lei cosa gli risponde? è chiaro che chiedere sciogliere l'ANIA il problema delle RC auto mi autoserficherei volentieri. Il problema delle RC auto corrisponde a problemi strutturali di fondo che bisogna affrontare. Noi delle proposte le abbiamo fatte precise. Rienzi lo conosciamo tutti, validissimo nella sua capacità e vis polemica, ma ha delle posizioni che definire precostituite è rappresentare solo una parte della realtà. Per cui non commento, quello che dico è io mi auguro, auspico che quanto proposto da noi, da molte associazioni dei consumatori pochi giorni fa, validato da proposte dell'ISVAP, quindi c'è una convergenza di più responsabilità. Quella delle imprese, quella dell'autorità di vigilanza, quella di chi rappresenta la maggioranza degli utenti, venga finalmente accolto non solo in termini di condivisione logica, ma in termini di fatti concreti, di iniziative di legge, di iniziative concrete. Questo va sulle materie che lei ben conosce. Vabbè, assolutamente. Presidente, io la ringrazio per la disponibilità, perché ogni anno, devo dire, uno potrà non essere d'accordo con quello che sostengono le compagnie di assicurazione, ma lei è sempre molto disponibile a rivendicare, come altri presidenti di altre associazioni, una posizione di parte. A spiegare, di parte sì, giustamente fa il suo lavoro. Rappresenta sì. No, per carità, perché poi lei magari come assicurazione ha appunto una posizione di parte, poi è cittadino in altre cose. Faccio notare, e spero di non aver generato una nuova moda, che c'è già chi sta scrivendo che ogni anno, dunque una cosa che mi ha fatto impazzire, ogni anno ho un piccolo colpo di frusta così mi rimborso la polizza CRC auto. Insomma, è una vita da stuntman più che da automobilista. Adesso io non so più come metterla, perché guardi, è due giorni tra la manovra. Un'istigazione all'aumento dei prezzi, però. Ecco, e quindi la colpa sarà mia, ma di questo non avevo dubbi. Senta, lei abbia un po' di comprensione, tra la manovra finanziaria, De Vita ieri, oggi le assicurazioni, sto facendo una certa fatica ad arrivare al punto. Comunque grazie al presidente dell'ANIA, Fabio Cerchiai. Arrivederla. Sì, lo so, la settimana prossima sarà la volta dell'ABI, quindi le banche italiane, a quel punto poi vediamo se riparte il programma a settembre. No, il programma c'è tutta l'estate, non cambia. C'è il traffico, chiedo scusa per il ritardo, poi il bollo, l'aumento del bollo sui deposito titoli, 349-238-6666 per i vostri sms, il traffico. ...17:51, la borsa adesso e poi la vicenda sui dossier titoli. Allora, sulla borsa oggi, come già vi ricordavamo, le misure in manovra hanno penalizzato, visto che ne parlavamo anche con il presidente Cerchiai, 1,8 miliardi le attese di rimborsi, di entrata dall'aumento dell'IRAP su banche e assicurazioni. Mondo assicurativo, ma anche mondo bancario penalizzato, la Popolare di Milano perde il 4,23%, attenzione, Fondiaria Sai però ha un'altra vicenda, Fondiaria Sai perde l'8,25%, c'è l'aumento di capitale in corso, dicevo, Popolare di Milano meno 4,20%, Banco Popolare meno 2,70%, Ubibanca meno 2,5%, Monte dei Paschi meno 2,1%, Intesa San Paolo meno 2%, Mediobanca meno 1,90%, e ancora per quello che riguarda i titoli segnalo anche Unicredit meno 0,80%, chi va bene, Diasori in più 1,40%, Luxottica più 1,1%, come Atlantia, Saipem più 1%, Campari più 1%, TOS più 0,90%, Exor più 0,80%. Lo faccio io oggi l'aggiornamento per due motivi, perché voglio concentrarmi sul dossier titoli e perché, secondo aspetto, i colleghi di Radio Corriere 24 ore sono in assemblea sindacale. Andiamo avanti con Enel Green Power meno 2,80 e anche qui fonti rinnovabili. Volete sapere, sembra scomparsa la norma che riduceva del 30% i contributi per le fonti rinnovabili, ma Enel Green Power continua a pagarla. E Azimut meno 2,20 abbiamo detto, Mediaset oggi perde l'1,70% e evidentemente qualcosa era già circolato, perché alle 5, prima che arrivasse l'annuncio del Presidente del Consiglio Berlusconi, Mediaset perdeva già il 2,30% in maniera inspiegabile, visto che ieri proprio sulla norma pro Fininvest, pro Berlusconi, aveva guadagnato in borsa. Le CIR da questo punto di vista perdevano, adesso ve le trovo con calma perché ho il computer aperto sull'altra finestra, l'euro è a quota 1,44,62, mentre cerco le CIR passiamo al prossimo tema, ossia un calcolo di quanto costerà l'aumento del bollo sul deposito titoli, sul dossier titoli, che vuol dire azioni, obbligazioni e quant'altro. Il governo si attende 8,8 miliardi di incassi in 4 anni. Allora, qualche calcolo lo facciamo, mentre ringrazio per averci raggiunto in collegamento Fabrizio Gastaldi, responsabile area Europa di Aletti GSTL. Buonasera, dottor Gastaldi. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Prima domanda, brucia appena in realtà, perché la chiedono gli ascoltatori, ma vale anche per i fondi comuni di investimento? No, quello no. Ecco, perfetto, così. Lo dico a tutti, è quel deposito, che quel conto che si apre in banca quando, mi dica se dico una castroneria, quando uno vuole comprare delle azioni o delle obbligazioni. Corretto, esattamente. È quella roba lì. Uno va in banca e ci vuole comprare. Apre un conto titoli e automaticamente l'imposta, in questo momento che è pari a 34,20 euro, viene alzata, se confermata chiaramente confermata poi in legge, a 150 euro fino a una certa determinata soglia, oltre 50.000 euro a 380 euro. Allora, questo per quello che riguarda, diciamo, appunto la platea che ne è coinvolta. I calcoli che abbiamo fatto, li do a titolo assolutamente esemplificativo, eccolo qua. Intanto devo dare le CIR, mi scusi, ma devo dare un aggiornamento sulle CIR. Quindi De Benedetti perdeva il 3% stamattina, poi quando si è saputo che la norma è stata ritirata, lo ha annunciato lo stesso Presidente del Consiglio, ha perso lo 0,91%, quindi ha recuperato il 2,1%. Chiuso l'aspetto CIR, Fininvest, i calcoli. Dunque, da 34 a 120 euro l'imposta di bollo sui deposito titoli, fino a 50.000 euro, a 380 euro se sopra i 50.000 euro. Praticamente questo va ad aggiungersi al calcolo sul 20% della tassazione per le rendite finanziarie, esclusi BOT, che restano 12,5%, per i conti correnti si scende a praticamente da 27 al 20%. Allora, il calcolo. 10.000 euro di BOT annuali rendono adesso l'1,5% al netto delle tasse e delle commissioni. Per cui, se leviamo tasse e commissioni, sono appena sufficienti per coprire la nuova richiesta del fisco, che è l'1,2% del patrimonio. Cioè, dopo che io ho pagato con un 1,5% di rendimento netto il bollo, mi restano su 10.000 euro 30 euro, di cui 18-20 euro vanno alla banca per la gestione, 12 euro. Che ci faccio? Un crodino. Diciamo che non fa assolutamente una piega al discorso che lei ha fatto. Cioè, 10.000 euro in botta un anno, levate le tasse 12,5%, le commissioni 0,30, i soldi alla banca e questo bollo, mi restano 18-20 euro alla banca, altri 12-10 euro. Dopo, mi scusi se la faccio attendere, ma dopo il GR io vorrei sapere, secondo lei, che cosa succederà con tutti i depositi titoli, soprattutto quelli in obbligazioni. GR, la risposta dopo GR, 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, dopo aver affrontato il tema della manovra, generalmente dato, vi raccontato anche in diretta che è stata ritirata la norma cosiddetta salva Fininvest, molti ascoltatori fanno notare che la norma prevedeva fino alla Cassazione. Ho capito, però attenzione, se Fininvest venisse condannata deve pagare adesso in appello, se poi riesce ad andare in Cassazione va bene. Il movimento del mercato sui due titoli era netto e il fatto che il Presidente del Consiglio l'abbia ritirata per i malumori del governo è già una risposta in sé. Abbiate pazienza. Vorrei continuare invece a capire cosa capiterà ai risparmiatori che hanno soldi investiti in conto titoli. Cioè, quando uno va in banca e chiede alla banca di comprare 10.000 euro, 20.000 euro di BOT, BTP e anche di azioni. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, dottor Gastaldi, dal calcolo che abbiamo fatto con un 10.000 euro di BOT annuali, 1,5% rendono al netto delle tasse, delle commissioni, il fisco vorrà a questo punto l'1,2% del patrimonio, gli interessi annuali dopo il superbollo resteranno 30 euro, di cui 18-20 vanno alla banca per la gestione del servizio e quindi sostanzialmente a me restano 10 euro. Un po' meglio va, perché la critica a questa norma è che non è progressiva, cioè una tantum, 120 euro fino a 50.000 euro, 380 euro da 50.000 euro in su. Un po' meglio andrà invece a chi dovesse aver investito sostanzialmente 30.000 euro in BOT, 120 euro sono lo 0,4% del capitale, quindi con lo stesso calcolo praticamente si verrebbero mangiate solo un terzo dei 450 euro di interessi netti oggi assicurati dai BOT. Dottor Gastaldi, mi dica, secondo lei a questo punto cosa capiterà, soprattutto per quelli che hanno somme basse, 10-20 mila euro, e rendimenti bassi, perché usiamo i BOT e i BTP come esempio? Sì, guardi, allora, sicuramente possiamo fare due considerazioni. La prima considerazione è legata al numero di conto titoli, quindi si vedrà se verrà mantenuta una tassazione di questo tipo, la riduzione sicuramente dei contotitoli e il numero di conti in possesso di ogni singolo correntista. Sì, perché se io ho con la banca 10.000 euro di contotitoli in BTP, poi altri 10.000 euro di contotitoli in azioni, altri 10.000 euro in bot, le paga faccio 120, 450 euro in totale, diciamo. Sì, no, 360 mi risulta. 360, sì, no, beh, d'accordo. 360 euro, per cui esatto. Uno dice riduco il contotitoli, cioè metto tutto in un contotitoli? Sì, la soluzione finale sarà che un correntista non avrà più diversi conti, ma avrà solo un unico conto titoli, nella quale porterà tutto l'ammontare delle sì, sue... purché non superi 50.000 euro, perché li scattano i 380 euro. Esattamente. Questa poi questa è la seconda considerazione, che è estremamente punitiva per i piccoli risparmiatori, cioè quelli che investono fino a, diciamo, a 50.000 euro o, diciamo, per le piccole somme, perché essendo un'imposta fissa e chiaramente va l'incidenza sul patrimonio va a diminuire man mano che aumenta il patrimonio. Certo. Quindi ci troviamo in sostanza che i grossi patrimoni, parliamo adesso di 1.000.000 euro, chiaramente l'incidenza dell'imposta di 380 euro sarà molto bassa percentualmente rispetto all'incidenza che ci sarà percentuale sui 10.000 euro o facciamo un assurdo sui 1.000 euro, cioè se i 1.000 euro prima l'imposta andava a essere intorno ai 3,42%, con la nuova tassazione andrebbe al 15% dal 2013, per cui sicuramente è estremamente punitiva per la fascia più bassa di investimento. Quello che potrà succedere è che tendenzialmente ci potrebbe essere uno spostamento da un investimento in titoli di Stato a un investimento in conti correnti di depositi a breve termine, che la cui tassazione dovrebbe passare dal 27 al 20%. Un'ulteriore ipotesi, però ripeto, questa rimane un'ipotesi, è che la tassazione, l'armonizzazione fiscale che viene portata al 20%, esclusi i titoli di Stato che vengono mantenuti al 12,50%, possa essere mantenuta al 12,50% anche per i PAC, cioè l'accumulo, quindi per i fondi, sì. E questo potrebbe portare chiaramente a un effetto forse perfino benefico, nel senso che se uno va a investire nei PAC, va a investire con un'ottica di medio e lungo termine e non più in un'ottica di breve e medio termine, come può essere sull'operatività fra virgolette fai da te, quindi spostare un'operatività fai da te a un'operatività più professionale. Sicuramente, sicuramente l'effetto è estremamente penalizzante per i piccoli soprattutto. Per i piccoli, esattamente. Perché non è progressiva, perché sono 120 euro che tu abbia 1.000 euro in botto, che tu ne abbia 40.000, esatto. E sono 380 euro che tu abbia 50.000 euro in botto o azioni, o che tu ne abbia 150.000. Ed ecco perché va a colpire i piccoli. Lo dico, al di là di tanta retorica, anche politica, sui grandi capitali, la grande speculazione, questa roba qua che porterà un gettito importante, il governo si attende 8 miliardi e 8 di incassi in 4 anni se tutti manterranno le posizioni. Lei ha chiarito chiaramente, uno andrà o sui fondi comuni di investimento o sui conti correnti bancari se non vuole investire, oppure, che vengono tra l'altro ridotti dal 27 al 20% come tassazione, oppure anche sui conti postali, perché no, mi scusi, in una battuta, vale anche per chi ha un conto titoli ma senza titoli? Cioè in teoria, nel momento in cui bisognerà vedere poi un attimo la norma come la prevede, ma nel momento in cui apro un conto titoli, automaticamente in teoria non dovrei pagare fin tanto che non compro un titolo. E vale anche se perdo? E questo dovrà essere probabilmente armonizzato da un punto di vista dovrebbe essere decurtato dalle perdite eventuali, però tendenzialmente questo vale per un discorso più azionario che obbligazionario, perché comunque è un rendimento dell'obbligazionario, chiaramente. Però sono tutte correttivi che dovrebbero essere poi chiariti dall'esecutivo. Va bene, grazie. Chi ci parla è responsabile area Europa di Aletti GSTL, un SGR, quindi non è tacciabile di posizione politica, lo dico perché c'è qualcuno che vede sempre la politica dovunque. Sì, alcuni l'hanno chiamata una patrimoniale, alcuni hanno parlato di patrimoniale mascherata. In realtà patrimoniale dovrebbe essere progressiva sul patrimonio, questa è una tantum e secca. Grazie a Fabrizio Castaldi. Traffico e poi commento alla manovra con Luigi Zingales. 349-238-6666 per gli sms. 18 e 17 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Molti messaggi che arrivano. Allora, sul tema del bollo sul conto titoli, domani se ne occuperà Deborah Rosciani a Salvadanaio in maniera ancora più esaustiva. E tra l'altro ricordo che domani continuano anche gli speciali del Sole 24 Ore. Domani in edicola quello su chi vince e chi perde con la manovra, e poi la prima puntata del dizionario tecnico sulla manovra, una guida dall'A alla Z sui provvedimenti fiscali. Facciamo il punto allora di nuovo, perché si fosse appena messo in collegamento, su quello che si è saputo ad oggi sulla manovra. Questa mattina rimandata la conferenza stampa che doveva presentare la manovra, ufficialmente per il maltempo. Qualcuno ha già scritto piove. Poi alle 17.30, eravamo in diretta, viene ritirata, lo annuncia il Presidente del Consiglio, la parte che riguardava il cosiddetta comma pro Fininvest, quindi blocco dei risarcimenti oltre i 20 milioni di euro, ritirata dal Presidente del Consiglio. La norma sul lodo era giusta, ma la ritiro, ha detto Berlusconi. E poi i conti, l'intervento reale sfiora i 50 miliardi in 4 anni, però attenzione, perché la correzione, cioè quanto ridurrà l'indebitamento in questa manovra, è tutto sul 2013-2014, ossia l'indebitamento verrà ridotto di 5 milioni, non 5 miliardi, nel 2011, quest'anno, di 150 milioni l'anno prossimo e poi di 17,8 miliardi nel 2013 e di 25 miliardi nel 2014. I tagli sono di 11 miliardi ai ministeri in 3 anni, di 10 miliardi agli enti locali 2013-2014, di 9 miliardi arriveranno al bollo sul deposito titoli, 7 miliardi e mezzo di tagli alla sanità nel biennio 2013-2014, 2 miliardi in 4 anni arriveranno dalla stretta su giochi e scommesse, 2 miliardi arriveranno dall'aumento dell'IRAP su banche e assicurazioni, 200 milioni sempre in 3 anni arriveranno dall'aumento del bollo delle auto di grossa cilindrata. Professor Luigi Zingales, che insegna impresa e finanza all'Università di Chicago, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, professore, lei già ha scritto sul Sole 24 Ore domenica un editoriale che adesso riprenderemo, che si occupava soprattutto della polemica sull'aumento del bollo per il deposito titoli. Però vorrei prima un giudizio sulla manovra, nel senso che a me sembra che siamo entrati, dopo la sconfitta del governo e amministrative, della maggioranza e amministrative, siamo entrati in questa manovra con il famoso assedio a Tremonti, con le richieste della Lega ma anche del Presidente del Consiglio Berlusconi: bisogna aumentare il potere d'acquisto degli italiani, ridurre le tasse, fare liberare risorse perché il paese non cresce. Mi sembra che siamo usciti con una manovra in cui la riforma fiscale è un disegno di legge che poi dovrà avere bisogno dei decreti attuativi, quindi viene posticipato i prossimi anni, e di certo ci sono solo alcuni aumenti che di fatto anche in maniera indiretta sono un aumento della pressione fiscale, penso al bollo sul bollo imposta sostitutiva per chi ha il deposito titoli, penso alla rivalutazione, al blocco sulle pensioni e quindi quello che è stato chiamato come il blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo, e insomma di grandi risorse per la crescita, insomma, ne vedo pochine, ma forse mi sbaglio io. No, diciamo che ci sono ragioni sia economiche che politiche per una manovra molto dilazionata, almeno nei suoi effetti nel tempo. Cioè, le ragioni economiche è che dobbiamo presentare un bilancio almeno nel lungo periodo più stabile per rassicurare i mercati, dall'altro non vogliamo avere una manovra troppo restrittiva nel breve periodo vista la scarsa crescita economica. Dal punto di vista politico, ovviamente il tentativo di scaricare i costi nel futuro è sempre presente e questa manovra lo fa in maniera sistematica, scaricandole dopo le elezioni future. Quindi mi sembra abbastanza comprensibile. La cosa che forse è più difficile da capire è perché non c'è un aspetto di crescita. Su questo, secondo me, due spunti. Il primo, non è facile pensare dove il governo possa spingere per la crescita. Due, in questo momento Tremonti non beneficia dei soldi per la crescita, beneficia della credibilità di stringere la borsa, quindi in questo senso è una vittoria di Tremonti. Quindi lei dice bisognava da un lato non stritolare quel poco di crescita con una manovra pesante nei primi due anni, dare una garanzia all'Europa però che si sarebbe arrivati a questa manovra complessivamente da 40 miliardi, certo però aggiungo io professor Zingales, quando tu sposti tutto al 2013 che è un anno elettorale e al 2014 che è un anno di un nuovo governo, insomma, non c'è qualche dubbio sulla capacità poi nel 2013 di fare questa manovra da 17 miliardi? Certo, la credibilità è in gioco sicuramente. L'altra cosa riguarda i costi della politica, vedo molti messaggi al 349-238-6666, fermo restando che non è dai costi della politica che si fa la manovra, però l'elemento simbolico è importante. Allora, il 30% del taglio ai rimborsi ai partiti partirà nella prossima legislatura. Gli stipendi parlamentari omologati a quelli di europei, qui c'è la norma, non si capisce se è dalla prossima legislatura, così come i tagli e i limiti alle auto blu, sia come cilindrata che come utilizzo, anche qui non siamo in grado di dirvi se partirà adesso o con la prossima legislatura. Poi c'è il disegno di legge sulla riforma fiscale, ma ripeto, quello necessita dei decreti attuativi. C'è chi dice, professor Zingales, che però se uno prende le voci che riguardano il bollo e l'imposta sui titoli, che vanno a azzerare per chi ha 10.000 euro in titoli con un rendimento del 3% anno, quindi molte obbligazioni e BTP, il prelievo di 180 euro porta praticamente il rendimento reale è il 180% del rendimento reale, mentre con 100.000 euro è solo il 72% del rendimento reale. Oltre a questo, se aggiungiamo il tema delle pensioni e il taglio agli enti locali che potrebbe portare a un aumento delle addizionali, c'è chi dice che questa è una manovra che aumenta la pressione fiscale. Lei è d'accordo? Beh, sì, è una manovra che aumenta la pressione fiscale soprattutto sul piccolo risparmiatore, cioè altamente regressiva e non facilmente giustificabile. Perché? Beh, perché voglio dire, una ristrutturazione, una omogeneizzazione dell'imposta sul reddito capitale è sacrosanta, doveva essere fatta tanto tempo fa, quindi è giusto che venga fatta. Però a questo punto non capisco perché farla addirittura regressiva, nel senso che è meglio da un certo punto di vista avere un imposto al 25% ma senza bollo, che avere un imposto al 20% ma con il bollo, dove chi viene penalizzato pesantemente sono i piccoli risparmiatori. Sì, come ricordavamo prima, con 10.000 euro di BOT, quindi l'investimento più classico del risparmiatore, tra tasse e spese e l'aumento del bollo, il rendimento netto annuo è di circa 10 euro l'anno. Quindi al netto anche dell'inflazione. Sì, è talmente forte che secondo me la vera motivazione di questo è una spinta al deposito bancario. Cioè, i depositi bancari sono i grossi vincitori della manovra perché devono abbassare l'aliquota e uniformarla agli altri investimenti, cosa che secondo me è sacrosanto, ma poi con questo costo fisso tutti i piccoli risparmiatori si sposteranno sui depositi bancari. E quindi questo darà una raccolta a costo molto più basso alle banche, quindi le banche sono le vere beneficiarie della manovra. Perché il deposito bancario già beneficia di una riduzione dal 27 al 20% dell'imposizione fiscale, le dice, a maggior ragione, se rendono così poco gli investimenti in obbligazioni, gli investimenti sicuri, in titoli di Stato. Cioè, se io ho 10.000 euro e oggi con 10.000 euro prendevo dei titoli, dei BOT, domani con 10.000 euro li tengo in banca. Ma questo non è controproducente per lo Stato che ha bisogno di rifinanziare il suo debito? In parte sì, a parte il fatto che rimane il fatto che ci sarà una differenziazione a favore dei BOT della tassazione, quindi questo rimane, ma poi molto degli investimenti poi bancari sono fatti in titoli di Stato, quindi in realtà è solo un sussidio alle banche che poi si traduce comunque in un forte investimento in BOT. Quindi più che altro a comprare i BOT non sarà più la vecchietta ma la banca, che è un cambio anche anche di prospettiva. E quindi lei come elemento più critico vede la non progressività dell'imposta, cioè il fatto che i 180 euro, i 160 euro o i 380 euro siano fissi, qualunque sia l'ammontare del tuo deposito, cioè cambia solo se sopra i 50.000 euro, questo diciamo rende non progressiva e penalizza il piccolo risparmiatore. Lei teme che il taglio e trasferimenti agli enti locali porti poi a un aumento continuo delle addizionali? Già quest'anno abbiamo visto un aumento delle addizionali comunali dell'IRPEF e anche delle addizionali provinciali sulle RC auto dal 12,5% al 16%. Beh, alla fine in parte questo è il federalismo fiscale, cioè una riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato centrale e un aumento dell'imposizione a livello locale, dove le regioni dove i soldi sono amministrati meglio aumenteranno meno e quelle dove sono amministrati peggio aumenteranno di più. Ecco, mi dica un'ultima cosa, professor Zingales, ma Tremonti ne esce rafforzato, neutro o indebolito da questa manovra? A me sembra che lui ne esca molto rafforzato, perché non ha assolutamente sbracato in nessuna dimensione, non ha distribuito soldi agli altri ministri che li possono usare per rafforzare il proprio potere, e bene o male può di fronte all'Unione Europea rappresentare un bilancio severo in linea con quello che è richiesto dall'Unione Europea. Quindi a me sembra che nel complesso sia il grande vincitore del dibattito. No, lo dico perché appunto, se ricordiamo, come dicevo all'inizio, come si è entrati in questa manovra, sembrava che a momenti si arrivasse quasi alle dimissioni di Tremonti, sotto scacco, sotto assedio. In realtà il suo giudizio è molto netto su questo. Grazie a Luigi Zingales, docente di imprese e finanza all'Università di Chicago, editorialista del Sole 24 Ore. Grazie a lei. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.